Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Benvenuti a voi tutti da Maurizio Melis. Questa sera e domani sera parleremo di accumulo termico stagionale, in particolare della possibilità di accumulare calore durante l'estate, quando il sole abbonda, per poi usarlo d'inverno per il riscaldamento. Infatti, come è noto, nel settore residenziale la quota prevalente dei consumi energetici è appunto in capo al fabbisogno di riscaldamento. Perciò, se l'obiettivo è estendere il più possibile l'uso delle rinnovabili, quella dell'accumulo è oggi una delle sfide più significative, soprattutto per il comparto del solare. Stasera allora andiamo a Marstal, piccolo paese della Danimarca di circa 2300 abitanti, dove è sorto un avanzato distretto del calore, gestito da un operatore pubblico che garantisce la fornitura di acqua calda a tutta la popolazione di Marstal, appunto, il Marstal Heat Solar District. Di recente questo distretto energetico ha realizzato uno dei più grandi progetti di accumulo termico stagionale. Per parlarcene abbiamo sentito il dottor Lasse Larsen, direttore del distretto. Sentiamo com'è andata. Professor Larsen, Marstal, tanto per cominciare, ha una lunga storia in termini di sostenibilità. Sì, utilizziamo solare termico da 15 anni. Abbiamo iniziato con 900 metri quadrati di pannelli solari termici e ora abbiamo installato circa 33.000 metri quadrati. E l'impianto ha dimostrato di avere il suo ritorno economico. Ecco, voi gestite una rete con cui distribuite alla popolazione locale questo calore che producete, se non sbaglio, con un mix di energia solare e biomassa. Siete praticamente già rinnovabili al 100%. Esatto. Il 55% del calore è prodotto dall'impianto solare termico, mentre un altro 40% da biomassa da cippato. La quota restante è coperta da una pompa di calore di 1,5 MW che garantisce un ulteriore 3% di produzione. E nei giorni in cui si raggiungono le maggiori punte di freddo, completiamo la fornitura con l'utilizzo di biocombustibili. Ecco, questi risultati li avete raggiunti grazie proprio all'ultimo progetto che avete messo in cantiere, che è operativo da qualche mese, ovvero Sunstore, finanziato dall'Unione Europea, progetto con cui avete realizzato un impianto di accumulo termico stagionale. Allora, può raccontarci com'è andata e quali sono i risultati? In passato, per 10 anni, abbiamo studiato l'accumulo termico grazie all'installazione di piccoli serbatoi. Dopo aver verificato la fattibilità di questa tecnica su larga scala, siamo passati alla realizzazione dell'attuale serbatoio da 75.000 metri cubi, nel quale accumuliamo acqua calda durante la stagione estiva, per poi utilizzarla d'inverno come fonte di calore. Da aprile di quest'anno abbiamo spento le nostre caldaie. A metà estate la temperatura nel serbatoio di accumulo era di circa 95 gradi, e al momento in cui vi parlo, fine ottobre, abbiamo una temperatura di mandata di 80 gradi e siamo in grado di garantire la richiesta di calore della comunità per i prossimi 3-4 mesi. Senta, e questa storia di immagazzinare calore d'estate per usarlo d'inverno sembrerebbe del tutto ovvia. Invece, progetti di questo tipo si stanno facendo solo ora. Allora le chiedo che cos'ha di speciale questo serbatoio e come lavora? Di speciale hanno i materiali isolanti. Utilizziamo materiali che lavorano bene alle temperature di esercizio del serbatoio. Tra l'altro, l'isolamento termico è completato da uno strato di isolante che galleggia sulla superficie dell'acqua, una specie di tappo galleggiante che segue l'andamento dei volumi interni dell'acqua e su cui si può anche camminare. Un altro aspetto importante è legato alle diverse temperature che si registrano a varie altezze del serbatoio. A regime, negli strati più bassi del serbatoio, possiamo contare su una temperatura di circa 60 gradi, mentre gli strati più alti raggiungono temperature di 95 gradi. Noi sfruttiamo queste differenze per ottenere il massimo di efficienza del processo. In pratica, il serbatoio è attraversato da un sistema di tubi a varie altezze. Quando l'impianto solare è in produzione, l'acqua appena scaldata dai pannelli solari viene fatta circolare negli strati inferiori del serbatoio, più freddi, ai quali cede gran parte del calore. Invece l'acqua calda per le utenze viene ottenuta prelevando calore dagli strati superiori, che sono più caldi. Che percentuale di fabbisogno pensate in prospettiva di poter raggiungere con il solare termico? E poi, ecco, crede che questo modello possa essere applicato in città più grandi di Marstal? A Marstal, come in tutta la Danimarca, la radiazione solare non consente di puntare tutto sul solare. Possiamo arrivare a coprire consumi fino al 70% incrementando il numero di pannelli e i serbatoi di accumulo. Il modello è quindi sicuramente replicabile in città più grandi, Tuttavia, ci vuole molto spazio a disposizione. Tenga conto che per ogni metro quadro di pannello solare termico siamo in grado di accumulare 2 metri cubi di acqua calda. Va da sé che in centri urbani di maggiori dimensioni bisogna avere a disposizione un mix di tecnologie, abbinare diverse fonti rinnovabili e non puntare solo sul sole. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani per la seconda puntata dedicata a questa tecnologia così importante. Buona serata. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.